Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora iniziamo con una notizia appena battuta dalle agenzie. La Grecia ha approvato l'attivazione delle clausole di azione collettiva, le CAC, nel quadro della sua ristrutturazione del debito. Che cosa vuol dire questo in italiano? Che la Grecia si avvarrà della possibilità che ha di obbligare tutti i creditori verso la Grecia ad aderire all'offerta che ieri è stata sottoscritta da più del 75% dei creditori. Lo abbiamo spiegato anche ieri, l'offerta che di fatto vede tagliato quello che era il vostro credito verso la Grecia del 53,5% e poi viene rimodulato quello che verrà ridato in diverse formule, perché una parte viene data dal Fondo Europeo, un'altra invece sotto forma di obbligazioni greche con scadenza a 11 e a 20 anni, se non ricordo male. Ebbene, queste clausole saranno applicate anche a tutti quelli che non le hanno sottoscritte. Era previsto dall'accordo, cioè se si fosse raggiunto più del 75% delle adesioni, questo accordo valeva anche per tutti gli altri. La Grecia ha approvato quindi l'azione collettiva, questa hanno ricaduta anche sulle banche, perché come spiegheremo fra poco, in questo modo scatta l'obbligo di pagare sui CDS, sui credit default swaps. Scatterebbe in realtà, perché su questo non è ancora chiaro, ne guadagnerebbero in primo luogo gli hedge fund, i fondi speculativi, quelli che hanno appunto scommesso su una ristrutturazione del debito greco, che poi, come abbiamo spiegato molte volte, è un fallimento pilotato, un fallimento tecnico, non è un fallimento vero e proprio, non è come quando porti i libri in tribunale, è come quando nel caso di un privato le banche dicono: vabbè, tu sei tecnicamente fallito, non vogliamo farti fallire, ristrutturiamo quello che ci devi, ci darai la metà, come nel caso greco, un po' meno della metà, e ce lo dai con scadenze molto lunghe. Questa è la prima notizia e sarà anche il tema di apertura. Dopodiché parleremo invece di dati italiani, perché oggi è arrivato un dato sulla produzione industriale italiana a gennaio che insomma fa tremare i polsi, meno 5% rispetto a gennaio del 2011, è tantissimo come calo, perché in un calo così forte non si vedeva dal 2009, dal dicembre del 2009, ossia da quando era appena esplosa la bolla, la crisi finanziaria negli Stati Uniti e non solo. E se allora si disse l'effetto di una crisi senza precedenti, ma si veniva da quasi 10 anni di crescita continua, adesso questa frenata che porta l'Italia a pie pari in recessione per quest'anno arriva dopo 3 anni di sacrifici, di disoccupazione in aumento, di PIL con tentativi di recupero, ma insomma non 3 anni di crescita. E voi capite che va quindi a incistarsi, se mi permettete il termine poco economico, in una situazione già parecchio compromessa, non come nel 2009 da anni, in cui con un po' di evasione, un po' di export, un po' di altro, comunque i fatturati tenevano. 349-238-6666 per i vostri sms. Come va la borsa? Milano è l'unica negativa in questo momento, perde lo 0,70%, guadagna Parigi più 0,70%, Francoforte più 1%, Londra più 0,60%, l'America più 0,40%, euro un po' in indebolimento a 1,3115. Come mai? Beh, oggi flettono le banche, Monte dei Paschi perde il 5%, il Banco Popolare il 3,5%, Mediobanca il 3,30%, la Pop Milano il 3,11%, la Popolare Emilia Romagna il 2,60%, Intesa San Paolo il 2,20% come Unicredit, e Ubibanca perde l'1,80%, male anche di Assorin meno 8,60%, peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, A2A perde il 2,5%, di nuovo Enel dopo le previsioni sul dividendo in calo di ieri meno 1,33%, Enel Green Power meno 1,90%. Chi guadagna? Lottomatica più 5,60, Steelmicroelectronics più 3, Parmalat più 2,40, Tenaris più 2,30, Finmeccanica più 2, Salvatore Ferragamo più 1,70, Eni più 1,36%, l'1,30 lo guadagna anche in pregilo. Il numero per gli sms ve l'ho già dato, partiamo subito con la notizia in breve. scrive un ascoltatore, insomma, ogni giorno aumenta la benzina e nessuno dice niente. Beh, veramente ne abbiamo parlato per mesi, senza grandi risultati né sul fronte della comprensione né sul fronte delle misure. Comunque, ancora rialzi sulla rete dei carburanti italiani, anche se il petrolio è a $106 al barile in America. Comunque, aumenti arrivano per Eni, Kuwait, Total Erg, tra l'altro è anche esso. Il prezzo massimo alla pompa resta invariato, e capirai, a 1,861 euro al litro. Il record appartiene a IP e oggi anche Kuwait. Il record del diesel invece se lo aggiudica la Shell con 1,770 euro al litro. Secondo il quotidiano Energia, il prezzo medio sul territorio è a un passo dal record storico del 1977. Qualcuno se lo ricorda? Insomma, io no, non così bene. Ma insomma, le famose domeniche a piedi, la gente che pattinava sulle autostrade. Ecco, lo shock petrolifero, la crisi dello shock dovuta allo shock petrolifero. Se si va a guardare al prezzo della benzina allora e lo si attualizza quindi al netto dell'inflazione, quindi a valori reali, siamo a un passo dal record di allora, che varrebbe in euro di adesso 1,856 euro al litro. Siccome siamo a 1,861 euro, siamo a livello praticamente qualche decimale, anzi qualche centesimo di differenza del record del 77 in pieno shock petrolifero. La buona notizia oggi arriva dall'America: sono stati creati 230.000 posti di lavoro a febbraio. È il terzo mese consecutivo in cui i posti di lavoro creati in America superano quota 200.000. Ed è il settore privato ad averne creati in America, 233.000, il settore pubblico invece ne ha persi 6.000. E qui la conferma che in America, sul fronte dell'occupazione, pur restando la disoccupazione ferma all'8,3%, l'America negli ultimi sei mesi ha creato 1.200.000 posti di lavoro, aiutata anche da una banca centrale, che non ha smesso in questi tre anni di stampare moneta tenendo i tassi bassi e occupandosi quindi della crescita, tutto l'opposto di quello che la Germania vorrebbe facesse la Banca Centrale Europea, per inciso. Si amplia però il deficit commerciale statunitense al livello più alto dal 2008, la differenza tra quanto l'America esporta e importa è arrivata a 52 miliardi a gennaio, di maggiori importazioni rispetto alle esportazioni. Dov'è che è cresciuto questo deficit commerciale? Con la Cina. È cresciuto del 12%, praticamente l'America, tra quello che esporta e quello che importa, in saldo negativo di 26 miliardi, importa dalla Cina 26 miliardi di dollari in più solo nel mese di gennaio rispetto a quanto ha esportato in Cina. Con l'area euro invece è diminuito il deficit, resta un deficit, ossia noi esportiamo come area euro di più di quanto non importiamo dall'America, infatti l'America è in deficit di 7 miliardi e 600 milioni nei confronti dell'Europa nel saldo appunto import-export. C'è chi contesta che io non mi ricordi nel 77, nel 77 avevo 9 anni scarsi, sapete che mi ricordi, però insomma non guidavo ancora. Ma il prezzo della benzina di oggi è arrivato a un passo dal record storico a valori attualizzati del 1977. Buone anche le notizie sul fronte esportazioni per la Germania: nel 2012 a gennaio più 2,3%, la Germania ha esportato nel mese di gennaio merci per un valore di 86 miliardi di euro. Come va il nostro spread? Beh, andava bene questa mattina, era sceso sotto quota 290, 287, poi adesso, alla luce del negoziato in Grecia che andava per le lunghe, non si capiva, era tornato a 300 punti base. Però la Spagna continua ad avere uno spread più alto dell'Italia, cioè il recupero che abbiamo fatto, siamo tornati ai livelli di giugno, in cui la Spagna ha 20-30 punti più di noi, paga 20-30 punti più di noi per trovare finanziatori per il suo debito. Della produzione industriale italiana parleremo più avanti. Oggi la manifestazione della FIOM, Maurizio Landini, segretario della FIOM, parlando al palco di Piazza San Giovanni per la manifestazione nazionale, ha detto: vogliamo, lo diciamo anche la CGIL, se da lunedì non parte una trattativa seria e non vi saranno risposte, c'è la disponibilità a proseguire anche fino allo sciopero generale. E poi a Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, ha detto Landini: basta con l'autoritarismo, si rende disponibile a riaprire una trattativa vera e forte. Ascoltiamolo, Landini, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Si renda disponibile a riaprire una trattativa vera, cosa che in questo anno e mezzo non ha fatto, a fare degli investimenti concreti per lavorare in Italia e soprattutto a garantire le libertà sindacali. L'idea che le aziende funzionino impedendo ai lavoratori di scegliere il sindacato che vogliono non è utile. In più, credo che dovrebbe smetterla di avere un atteggiamento autoritario verso i lavoratori. Penso che non assumere chi è iscritto alla FIOM a Pomigliano o impedire ai 3 lavoratori ingiustamente licenziati a Melfi di non rientrare in fabbrica è una logica sbagliata che non va da nessuna parte. Allora, al di là insomma, della polemica FIOM Fiat, il nostro punto su Marchionne lo conoscete, a nostro avviso ha avuto anche un ruolo e non da poco nel porre temi sulle relazioni industriali con Pomigliano, ma non solo. Quello che apprezziamo meno nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è questo balletto che non riguarda la FIOM, riguarda il ruolo della Fiat in Italia. Resto, ma potrei restare se vendo in America, no, alla fine resto. Insomma, forse il governo ha fatto bene a chiedere un chiarimento a Sergio Marchionne. Vorrei anche capire cosa è successo del progetto Fabbrica Italia, quello che doveva, appunto, prevedeva importanti investimenti della Fiat in Italia. Oppure la dica una volta per tutte: la Fiat avrà un futuro solo se spostiamo tutto a Detroit o la maggior parte a Detroit, almeno ce lo dica. Nel frattempo abbiamo notizie anche per farvi arrabbiare il venerdì, e cioè notizie strane da questa crisi, o meglio, ci sono tanti tipi di crisi. Ricordo il numero per i vostri sms: 349-238-6666. E adesso cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Eh sì, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. È Citigroup, colosso americano, bancario, mondiale, che nel 2008, per non fallire, ricevette circa 50 miliardi di dollari dal governo americano. Era una delle banche, insomma, dopo Lehman Brothers si iniziava a ragionare: ce la farà Citigroup, salterà per... Ecco, 50 miliardi di dollari che ha restituito, li ha restituiti a fine 2010. Però, insomma, come dire, se uno ti aiuta, la collettività ti aiuta, perché sennò con le scelte che hai fatto, gli investimenti che hai, i titoli tossici che hai, le esposizioni che hai, chiudevi bottega. Ebbene, è tornata a fare un bel utile nel 2011, 11 miliardi di dollari di utile, 6 miliardi in più rispetto al 2010, con un quarto trimestre deludente rispetto alle attese. Però oggi si è saputo che il mitico Vikram Pandit, amministratore delegato di Citigroup, nel 2011 ha ottenuto un assegno, un bonus, di 15 milioni di dollari, ossia 1.700.000 dollari di salario. Ma non bastano. 5.300.000 di bonus in contanti e poi opzioni per altri 7,8 milioni di dollari. Volete sapere come si è giustificato Vikram Pandit? Insomma, è il primo bonus dal 2008. E te credo, ti stavano chiudendo nel 2008, se non ti salvavano i contribuenti americani. 15 milioni. Ora, è un gruppo privato, può fare quello che vuole, siamo d'accordo, ma insomma la crisi c'è per tutti e non c'è per nessuno. E a noi è venuto in mente questo passaggio così. Lo riascoltiamo, Wall Street 2, la lezione di Gordon Gekko all'Università degli Studenti, quando ha spiegato perché a un certo momento anche i banchieri si sono messi a darsi bonus come i gestori di hedge fund, perché mica siamo cretini noi, no? Qualcuno mi ha ricordato qualche sera fa che una volta ho detto la verità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare tre case che non può permettersi senza dare l'anticipo. Ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di $250,000 sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV al plasma, l'ultimo cellulare, il computer e già che ci sono anche un SUV. E perché non anche una seconda casa, in effetti conviene. Insomma, lo sappiamo tutti che il prezzo delle case in America sale sempre, giusto? Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre perché tornassimo tutti a fare shopping. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito. CMO, CDO, SIV, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io, sono solo delle ADM, armi di distruzione di massa. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Complimenti comunque a Vikram Pandit, 15 milioni di dollari di stipendio nel 2011. Chissà come ha fatto a riportare inutile Citigroup, investendo sulle imprese americane o scommettendo sul debito greco, italiano, spagnolo, sui CDS, saperlo. Allora, intanto anche da noi la crisi ha diversi livelli, diverse facce. Sapete quanto guadagna in più un commesso di Palazzo Madama rispetto a chi dirige gli Uffizi? 4 volte, nel senso che il direttore degli Uffizi, una delle più importanti gallerie italiane, guadagna 1.780 euro netti, contro il guadagno appunto 4 volte superiore di chi fa il commesso alla Camera. Praticamente, pubblicando anche gli stipendi dei dirigenti dello Stato, ma non quelli dei grandi dirigenti che abbiamo visto, non si capisce perché a questo punto uno fa il direttore della, ma neanche della Consob, il direttore dei monopoli, 400.000 euro, e va bene, direttore generale dei monopoli di Stato, capirai che rischio, guadagna 11 volte più del direttore degli Uffizi. Io questa cosa non la capisco. Poi dice che vogliamo puntare sulla cultura, puntiamo sui monopoli, sale tabacchi verranno qua per i monopoli. Pensate che l'ex segretario generale del Senato, Antonio Malaschini, ha di pensione 520.000 euro lordi, e invece il guadagno di chi gestisce e dirige la Galleria Nazionale d'Arte Antica è di 32.500 euro, cioè 16 volte in meno. Insomma, pensate che i pari grado dei nostri direttori dei musei in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna guadagnano il doppio se non il triplo. E visto che il tema è abbastanza greco, partiamo con la Grecia. Ora io non so cosa si possono inventare ancora le agenzie di rating per trovare un nome che abbia dentro default, cioè fallita, ma non completely, perché siamo andati a diverse. Oggi Fitch si è inventata, dico ridendo, è restricted default, cioè da C l'ha declassata a una D, ma direi io, no? Moria Longo, Sole 24 Ore, buonasera. Cos'è il restricted default? È un default solo per pochi addetti, non so. Ammetto che non avevo mai sentito questa serie, di solito si chiama selective default. In questo caso restricted default, secondo comunicato di Fitch, significa semplicemente che la Grecia è in default adesso, ma nel momento in cui, un default diciamo temporaneo, ma nel momento in cui la Grecia emetterà i nuovi titoli oggetto dello scambio con i vecchi, per cui proprio fino a ieri sera gli possessori di titoli hanno dovuto aderire, ecco, nel momento in cui emetterà i nuovi titoli tornerà diciamo in bonus, quindi il suo rating non sarà più in default ma tornerà a una C o tripla C, qualcosa, sicuramente un rating basso, però non sarà più in default. Diciamo che possiamo tradurre questo restricted default come un default temporaneo. C'è adesso ma tra un po' tornerà normale. Come la vita. Restricted life, no? Anche la vita è tempo. No, perché mi chiedo, insomma, hanno paura a dire default perché poi gli toccherebbe prendere tutte le conseguenze anche, diciamo, legali di quello che dicono, perché se sei in default a quel punto cambia tutto e dicono restricted default. È un default sì, ma anche, insomma, chiamiamolo temporaneo, dura temporaneo. Un pochino, poi vorrei ma non posso, ecco, vabbè. Allora, il governo greco ha ottenuto il 95,7% di adesioni allo scambio e quindi i nuovi creditori, cioè i vecchi creditori, diventano nuovi creditori e avranno il 53,5% in meno della metà di quanto hanno prestato alla Grecia. Infatti sono stati offerti 152 miliardi di euro di crediti da scambiare, pari all'85%, a cui vanno aggiunti altri 20 miliardi di titoli esteri. L'Eurogruppo, che oggi si è riunito via telefono, se non ho capito male, ha detto di essere incoraggiato dall'adesione allo swap greco. Il punto importante riguardava, mi sembra di capire Moria, se la Grecia avrebbe o meno utilizzato la clausola a sua disposizione, ossia superato il 75% delle adesioni, poteva obbligare anche gli altri a accettare quella proposta lì. Mi sembra che l'abbia fatto. Sì, l'ha fatto. Allora, il problema era questo. La Grecia ha chiesto appunto all'investitore di scambiare vecchi titoli con nuovi titoli, con una fortissima perdita. Le adesioni dovevano superare il 90% affinché la Grecia abbattesse il proprio debito in maniera sufficiente. Siccome le adesioni sono arrivate all'86%, la Grecia ha deciso di attivare delle clausole che aveva imposto per legge poco tempo fa, che fanno sì che chi non ha aderito aderisce automaticamente, quindi in maniera obbligatoria. Il punto è questo. Affinché non ci sia un default vero e proprio, doveva essere rispettata la volontarietà. Dal momento in cui una parte degli obbligazionisti che non ha aderito all'offerta ma viene forzato ad aderire, la domanda è: si perde la volontarietà? Quindi la Grecia va in default? Questa, che sembra una domanda banale, in realtà non lo è affatto. Per risponderti, chi se ne frega, tanto lo è già. Invece in fallimento. È importante, perché se c'è un default scattano i cosiddetti credit default swap, che sono le assicurazioni che tanti investitori hanno fatto contro il fallimento della Grecia. Se non c'è il fallimento non scattano, primo punto. Secondo, se scatta il default della Grecia sarebbe il primo paese dell'area euro ad andare tecnicamente in default. Il che e non può... lo vogliamo dire. Ecco. Non lo voglio, no, nel senso che mi sembra che tutti... Allora, il problema è che la Grecia è insolvente, lo era, lo sarà. Tanti già sostengono che la Grecia avrà bisogno di un nuovo piano di aiuti l'anno prossimo. Sì, anche consideramente. Per cui, allora, questo non è... Il dato oggettivo è che la Grecia è al collasso totale. A me ricorda molto la favola che si racconta ai bambini del re nudo. Comunque, sì, sì, continuiamo a dire che è un vestito molto sottile, va bene? Una foglia di fico, diciamo. No, un vestito molto sottile finché un bambino non dirà che il re è nudo. Andiamo avanti su questo, però, Moria. Quindi tu mi stai dicendo che non è detto che, siccome la Grecia ha fatto ricorso alla possibilità di obbligare anche gli altri a aderire a questa proposta, che scatteranno in automatico i pagamenti dei CDS, cioè dei premi per assicurarsi contro il fallimento, in questo caso greco, perché questo vorrebbe dire che le banche che li hanno emessi devono pagare dei soldi ai fondi, soprattutto speculativi, che magari c'è anche qualche privato, ma insomma, che li hanno comprati. Sì, non è matematico, e a deciderlo è un'associazione americana, si chiama ISDA, che tra l'altro è composta, la commissione che deve decidere è composta dalle maggiori banche americane, quindi sostanzialmente sono loro che hanno in mano l'80% del mercato dei derivati, dei credit default swap, che devono decidere se scattano oppure no i risarcimenti. Quindi già comunque un conflitto di interesse c'è. Questa commissione dell'ISDA si è riunita all'una ora di Londra, quindi... le due italiane, e ancora non è uscito il risultato, per cui non si sa. Gli economisti danno quasi per scontato che scatti il default, proprio perché è venuta meno la volontarietà. Però non è detto, perché? Perché nel momento in cui l'86% degli obbligazionisti ha aderito all'offerta, automaticamente ha votato a favore di far scattare queste clausole di azione automatica. Quindi, dato che la maggioranza dell'86% ha votato a favore dell'attivazione di queste clausole, è possibile che la maggioranza abbia deciso, quindi la volontarietà viene mantenuta perché la maggioranza l'ha votata, quindi anche se poi il restante 20% è costretto ad aderire, anche se non l'avrebbe fatto, ma dato che la maggioranza ha votato, questo potrebbe mantenere la volontarietà. Potrebbe, nel senso che la maggior parte degli economisti considera il momento in cui scattano queste clausole default automatico. Però ripeto, non è detto, perché l'altro giorno l'ISDA ha fatto un comunicato molto sibillino nel quale faceva intendere che la volontarietà avrebbe potuto essere mantenuta. Beh, diciamo che lì la partita se la giocano tra banche e hedge fund, cioè sì, noi, se la cantano, se la suonano da noi sole. Siamo un po' tagliati fuori, ma avessimo potuto speculare anche noi sul fallimento, no, della Grecia, vabbè. Auguri, è una bella lotta tra lobbies, eh? Parlo a livello internazionale, visto che appunto le banche che dovrebbero tirare fuori qualcosa come 3 miliardi di dollari da pagare ai fondi speculativi. Insomma, è una bella sfida. Morelongo, grazie. Io devo però registrare anche una cosa importante per quello che riguarda l'Italia, ossia il giudizio del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, proprio sull'Italia alla luce di quanto è successo in Grecia. Perché Christine Lagarde, nell'aver giudicato un importante passo avanti l'adesione alla proposta greca, ha detto: attenzione, senza un fondo, un firewall, sarebbe il muro antincendio per difendere l'Unione Europea, a rischio ci sarebbe anche l'Italia dopo la Grecia. Poi però ha corretto e ha continuato: da quando è premier Mario Monti, l'Italia ha dato prova di serietà, concentrazione e determinazione a portare il paese fuori dalla depressione in cui si trovava. Mario Monti, non essendo un politico, ha il coraggio di realizzare misure molto dure e impopolari, come aprire la concorrenza, rimuovere le costrizioni dell'economia, portare più flessibilità nel lavoro. Non è bello però sentirsi dire: siccome non sei un politico sai fare le riforme, eh? E poi i Super Marios piacciono anche a Christine Lagarde. I due Super Mario, Mario Monti e Mario Draghi, che hanno lavorato insieme, hanno cambiato in meglio le prospettive del 2012. Due italiani di cui essere fieri, e non è poco in questo periodo. Meteo, pubblicità, poi la borsa e gli altri temi di questo programma. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 che hanno come tema: ma insomma, ditelo che la Grecia è fallita. Allora, non ci fermiamo sui nominalismi. È un po', glielo ho spiegato all'inizio, se tu sei un imprenditore e sostanzialmente la banca, siccome è molto esposta verso di te, invece che farti fallire, perché a quel punto non ottiene niente, accetta che tu le ridia il più possibile. In questo caso l'accordo è stato su una Grecia che riesce a ridare il 47% di quello, 46,5% di quello che avevo ottenuto come prestito, e i creditori hanno detto: beh, meglio il 46% che un calcio negli stinchi, cioè meglio quello che niente. Però è ovvio che se arrivi a questo livello sei tecnicamente fallito, non ci giriamo molto attorno. Questo è, poi non si può dire, perché meglio non dirlo, perché sennò le conseguenze sarebbero state più devastanti. La borsa. Allora, Milano la peggiore oggi, meno 1%, Parigi meno 0,20, Francoforte più 0,60, Londra più 0,60. Come sempre l'appuntamento è con Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Realizzi sulle banche, ieri molto avevano corso, va anche detto. Sì, ma anche diciamo a gennaio e febbraio, guardando alcune performance come quelle del Monte dei Paschi o del Banco Popolare o della stessa Popolare di Milano, insomma erano titoli praticamente raddoppiati rispetto ai valori iniziali, che comunque erano molto depressi. E quindi oggi, fatto l'accordo, seppur con qualche difficoltà, sulla ristrutturazione del debito di Atene, ci sono stati i classici realizzi. Allora Monte dei Paschi meno 5,20, Banco Popolare meno 3,80, Pop Milano meno 3,60, Mediobanca pure, Unicredit meno 3, Intesa San Paolo meno 2,90, Popolare Emilia Romagna meno 2,80, Ubibanca meno 2, come Generali. Lo spieghiamo spesso, siccome a Milano le banche pesano sull'indice più che altrove, ecco spiegato anche il calo di Milano complessivamente. di Assori meno 7,80. Che è successo su di Assori? Qui ci sono stati i conti 2011 diffusi oggi, che devo dire sono stati dei conti in crescita, perché il fatturato è arrivato a 440 milioni, il margine operativo lordo a 190 milioni, una crescita comunque si puntualizza leggermente inferiore a quello che si aspettava il mercato. Tuttavia a determinare poi il crollo di borsa, perché tale è stato, è stata la guidance per il 2012, cioè le previsioni che la società fa per come chiuderà l'esercizio in corso, delle previsioni che vedono un ricavi sostanzialmente in linea e un margine operativo lordo, che poi è quello che va a indicare quello che sarà come il termometro del business della società, addirittura in calo, e quindi il mercato è rimasto molto deluso. Allora, su di Enel abbiamo parlato anche ieri, meno 1,5%, oggi prospettive in calo soprattutto sui dividendi, miseria. Bene, Parmalat invece in attesa dei conti più 1,5%, l'Automatica ieri conti oltre l'attesa un altro guadagno, arriva a 14 euro per azione, più 5,30%. Assolutamente, dei conti che diversamente da Diasori sono stati superiori a quelle che erano diciamo le attese del mercato, l'EBITDA, cioè sempre il margine operativo lordo, è cresciuto del 20%, e per il 2012 l'Automatica stima un EBITDA ancora in crescita e addirittura superiore al miliardo, quindi questo è praticamente un caso rispetto a quello di Assorin, gli operatori hanno dato fiducia a quello che prevede la società. Insomma, il gioco va bene, non solo d'azzardo, il gioco in generale va bene, in periodo di crisi l'abbiamo spiegato molte volte, non è nemmeno così strano. Chiudiamo con Finmeccanica, perché tornano le ipotesi di una quotazione di Avio, di cui Finmeccanica ha il 14%, più 1,30%, no? Sì, è un'ipotesi che certamente fa bene al titolo, perché una quotazione poi potrebbe portare anche la società a valorizzare, come si suol dire, questa quota, cioè insomma metterla sul mercato. Finmeccanica è impegnata comunque in un procedimento di dismissione, quella cosiddetta fase 2, che dovrebbe portare la società a snellirsi e a ripartire, considerato che comunque le quotazioni di borsa sono ai minimi storici. Migliore in assoluto Sintesi, più 21,43, poi la Lazio più 6,17, poi Unilever più 5,60, Industria e Innovazione più 5,80. Peggiore in assoluto Investimento e Sviluppo meno 23%, RDB meno 10%, Cicolella ieri molto forte meno 8,16%, e poi Safilo meno 4,90%. Grazie a Ciao Condina. C'è il traffico, poi parliamo di un settore che va bene, e mi riferisco al settore dell'occhieria italiana, per poi parlare di un'industria che non va bene. Il dato brutto di oggi su gennaio, meno 5% nella produzione industriale. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo, prima di arrivare al dato brutto sulla produzione industriale a gennaio, che ha frenato oltre ogni attesa, e quindi confermando un ingresso nel 2012 molto molto molto lento, se non in recessione totale, parliamo di uno dei settori più rappresentativi del nostro Made in Italy, che nonostante la crisi, nonostante tutto, bene si sta comportando. Fra 3 settimane saremo al Vino Italy, quello è un altro settore, il vino che va bene. C'è anche l'occhialeria, dove noi siamo leader a livello mondiale, quasi 1000 aziende in Italia, 17.000 occupati, una produzione che lo scorso anno ha raggiunto i 2 miliardi e mezzo di euro. Miliardi e mezzo di euro significano quasi il 9% in più come produzione l'anno scorso sul 2010, leader nelle fasce alte soprattutto e nei mercati esteri. Ne parliamo perché praticamente inizierà a breve il salone più importante, ma ne parliamo con il presidente di Mido e Anfao, ossia l'Associazione Nazionale dei Fabbricanti Articoli Ottici, nonché la guida del gruppo Marcolin, Cirillo Marcolin. Marcolin come gruppo significa 6 milioni di occhiali prodotti ogni anno, marchi come Diesel, di Square, Hogan e quant'altro, ma in quanto presidente dell'associazione del settore. Buonasera. Buonasera. Allora, visto che si sta per aprire appunto l'edizione annuale del Mido, più 8% la produzione di occhiali italiani nel 2011 sul 2010, a 2 miliardi e 600 milioni di euro. Avete fatto più 15% nell'export nei primi 6 mesi del 2011, e gli ultimi 6 mesi del 2011? c'è stato un calo della crescita che si è attestata intorno al 7%, visto soprattutto l'ultimo trimestre anticipare un po' le problematiche, le preoccupazioni. Quindi si è dimezzata, è rimasta una crescita dell'export, ma si è dimezzata di fatto rispetto ai primi sei mesi del 2011. E i primi due del 2012? La sensazione è che ci sia questo continuo rallentamento che si è visto nell'ultima parte dell'anno. Dati certi non abbiamo ancora, però indubbiamente crediamo di poter dire che la situazione non sia tanto diversa dall'ultima parte dell'anno. La domanda arriva anche qui: Brasile, Cina, India, ce la diamo per archiviata o c'è qualcosa di più interessante? No, io credo che la crescita debba essere sostenuta, valutata proprio in questi paesi emergenti. È indubbio che il valore assoluto è ancora contenuto, però il tasso percentuale è importante. Il sud-est asiatico è fondamentale. Credo che nel corso dei prossimi anni avremo delle buone sorprese anche dal mondo della Cina, perché al di là dell'Asian Fitting, che noi ci dobbiamo un po' adeguare alla morfologia degli asiatici, ma se cioè l'Asian Fitting sarebbe la forma del naso degli asiatici? Chiedo. Sì, la forma in generale del naso, chiaramente la calzata in senso volto, lato, poi diciamo. Qualcuno potrebbe anche inoltrarsi in concetti di Asia Design, anche perché dovremmo capire che dobbiamo rispettare tutte le popolazioni, certo, del mondo, non pretendere di essere noi solo ad esportare, ma in qualche modo essere global, cioè andare verso il mondo globale, ma anche sostanzialmente adeguarsi alle specificità. Ma cioè, nel disegnare un occhiale, no, adesso mi sta incuriosendo, per un asiatico, con il massimo rispetto, è chiaro che la forma della faccia, immagino, ma anche... Voi cosa studiate? Perché per adesso gli occhiali li abbiamo sempre esportati, voglio dire, faccio un esempio banale, ma il Ray-Ban nasceva come occhiale da pilota degli americani, ce lo siamo beccati anche in Italia, non era pensato per un certo tipo, era l'occhiale e basta. Invece lei mi sta dicendo che oltre al design c'è anche tutto uno studio soprattutto sugli occhiali da vista, che presuppongono una ottima calzata, altrimenti certo, non possono correggere la vista. Le grosse imprese che oggi distribuiscono nel mondo anche attraverso proprie filiali dirette o anche coi distributori sviluppano un Asian Fitting, altrimenti non riuscirebbero a massimizzare il risultato in loco. Ecco, a proposito di Asian Fitting, non faccio la battuta perché sarebbe volgare, però qui c'è il rischio che ci freghi l'Asian F qualcos'altro, perché sappiamo che la concorrenza anche nel vostro settore, soprattutto sulla fascia medio-bassa, che è però quella dei grossi volumi, arriva da lì. Allora, quella è una concorrenza che prima o poi porterà l'Italia, come è già successo in altri settori, a abbandonare sul fronte della produzione manifatturiera, non del marchio, magari lo fai fare in Cina, però abbandonare quei campi, cioè non siamo competitivi come costo del lavoro, come economia di scala, oppure no? La fascia bassa è evidentemente già persa, non c'è storia. Cioè, il concetto del cuneo fiscale in Italia lo conosciamo benissimo, il dipendente costa all'azienda moltissimo e molto di più che non ai nostri competitor anche europei, e il dipendente stesso ha uno stipendio netto che non è paragonabile, è troppo basso. Quindi o cambia questo tipo di atteggiamento, ma io credo che sulla fascia bassa non ci sia storia. Sul discorso del medio e indubbiamente dell'alto è la nostra forza, non possiamo dimenticare il medio, ma io credo che anche la fascia medio-alta sia ancora e abbia un grosso potenziale. La Cina sta crescendo molto, ha tassi di crescita elevati, saranno anche rallentati, ma nulla hanno a che fare con il PIL italiano, quello europeo, quindi il potenziale c'è. Ma torno a dire, lì che prima o poi produrranno anche loro la fascia alta o medio-alta. Io credo... è più un vantaggio avere una torta che si allarga, per cui avere anche dei produttori cinesi ma su una torta più ampia, oppure più uno svantaggio, è meglio mantenere, diciamo, la leadership con... No, io credo che si deve vivere la competizione e aggredire il mercato con la competizione, quindi è giusto che la torta si allarghi. Teniamo conto che il cinese, paradossalmente, che incomincia ad avere potere d'acquisto, vuole acquistare europeo, vuole anche lui, speriamo, in qualche modo identificarsi. No, sono già dati di fatto. No, dico, speriamo che continui. Sicuramente, secondo me dovrebbe aumentare. Lei ha ancora certezze che a me mancano, però diciamo, l'augurio resta invariato. E quindi se la Cina può rappresentare un'opportunità per voi, perché si allarga la platea dei clienti possibili, quindi magari diventeranno da 10, 20, però di questi 20 ne beccate anche voi, quindi in realtà non c'è un effetto solo negativo, pur con un ingresso anche di produttori cinesi. I vostri problemi da dove arrivano? Perché siete mille tra piccole artigiane, i marchi grossi sono pochi, abbiamo sentito con Andrea Guerra la difficoltà che ha anche un colosso come Luxottica a presidiare, quando ci dice che con 350 punti vendita riesce a presidiare solo le città principali della Cina, si capisce già la difficoltà anche in un gruppo che per noi è grosso. Allora, l'aiuto che voi chiedete qual è? È del credito di nuovo col rapporto banca-imprese o c'è qualcosa in più che può fare? Ma il governo credo che abbia, il governo Monti credo che abbia fatto già bene, però quello che deve tener conto è di finanziare la crescita, di pensare alla crescita, quindi non solo di mettere a posto i conti in Italia, e le aziende piccoline o medio italiane anche del nostro settore hanno bisogno di essere accompagnate a livello internazionale. Non è possibile pensare di avere delegazioni che provengono da una provincia e vanno in Cina, da un'altra regione del nord o del sud. Bisogna fare sistema e in qualche modo aiutare le imprese. Abbiamo visto cosa è successo. L'ICE è stata chiusa, sicuramente molto non funzionava dell'ICE, ma alcune peculiarità e capacità sono state tolte anche queste, e comunque le aziende hanno bisogno della promozione. Quindi mi auguro che a breve si possa avere un'agenzia che funziona, efficiente ed efficace, come lo hanno i nostri vicini francesi piuttosto che tedeschi, perché loro ci sono in Cina e sono assistiti. Nel rapporto banche imprese, visto che è un tema alquanto ricorrente, visto che il vostro settore appunto è fatto di qualche grande nome, intendo dire grande come dimensioni, non solo come prestigio, ma anche di tantissime piccole realtà, e quindi rappresenta poi quello che è lo spaccato del sistema produttivo italiano. Lì il rapporto con le banche nel bellunese, come tanto tutto lì, lo chiede l'italiana, come va? Credo che non sia una situazione semplice e facile. L'imprenditore oggi ha già difficoltà a far quadrare i conti alla propria azienda, vive una crisi internazionale, deve aggredire il mercato con nuove idee, con innovazione. Qualcuno bisogna che gli dia la benzina data anche dall'attività del leverage finanziario. Ma lei per esempio ha problemi come gruppo Marcolini? No, il nostro gruppo no, sostanzialmente credo che sia sano finanziariamente, ma evidentemente se può utilizzare il leverage lo utilizza. Ma lei è andato in banca recentemente? No, ma credo che Marcolini non abbia questo tipo di problematiche oggi. E i suoi associati invece cosa le raccontano? Gli associati invece, le piccole imprese, hanno la necessità di essere aiutate dal sistema creditizio e non possono trovarsi con un costo del denaro troppo elevato. Oggi direi che non è nemmeno un problema del costo del denaro, non c'è proprio il denaro a prestito che è ancora più. Ma questo le arriva come segnalazione? La segnalazione certa da parte degli associati. Allora, grazie al Presidente, appunto, ricordo a tutti che inizierà a brevissimo la fiera più importante a livello mondiale dell'occhialeria, visto che noi siamo leader mondiali, la 42esima edizione del Mido a Milano dall'11 al 13 marzo. Grazie al presidente del Mido e Anfao, quindi ai fabbricanti di occhiali, Cirillo Marcolin. Dopo parleremo dei problemi della nostra produzione industriale, ma dopo il GR. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, dopo aver commentato la Grecia, sì, molti parlano di concordato preventivo, insomma, l'abbiamo detto in tutti i modi, è un fallimento pilotato, non si può dire fallimento perché sennò avrebbe avuto un effetto peggiore, ma fallimento pilotato. E dopo aver ricordato, al di là della borsa, ricordo che si è messo in ascolto, meno oggi Milano è la più debole, meno 1,11%, per via dei realizzi sulle banche in tutta Europa che da noi pesano di più. E dicevo, dopo aver ricordato che assieme ad altri settori anche l'occhialeria è un settore che tira, adesso andiamo invece sul dato più significativo di oggi, a mio avviso, e cioè la difficoltà della nostra industria, come e con quale tipo di frenata abbiamo iniziato il 2012. Devo dire, stiamo raccontando alcune settimane, diciamo da fine dicembre, che il rallentamento è in atto da novembre-dicembre in poi, che il 2012 sarà un anno di recessione che va a installarsi su una debolezza già da 3 anni della nostra economia. Il dato di oggi però obiettivamente è sorprendente. Eh sì, parliamo di produzione industriale perché, come ricordavamo all'inizio del programma, oggi il dato che riguarda il mese di gennaio è un dato brutto, nel senso che rispetto a dicembre c'è un meno 2,5% nella produzione della nostra industria, e il dato congiunturale, il mese su mese, ma il dato veramente brutto è quello anno su anno, il tendenziale, come si chiama in gergo. Meno 5% a gennaio del 2011 rispetto a gennaio del 2012 rispetto a gennaio del 2011. Una brusca frenata, anche perché le attese erano di un calo tra l'1 e il 2%, ma soprattutto un meno 5% rispetto all'anno prima non si vedeva dal dicembre del 2009, cioè da quando sostanzialmente si era nella parte più virulenta della crisi scoppiata un anno prima. E poi c'era stato però nel 2010 un recupero della nostra produzione industriale, non sufficiente a riportarla ai livelli del 2007, però più 6,5% nel 2010, nel 2011 il dato si è chiuso sostanzialmente invariato, e però l'inizio di questo 2012 è pesante, in forte frenata. Ricordo che nel 2009 il calo complessivo fu del 18,8%, ma è chiaro a tutti che mentre nel 2009 diciamo, la frenata della produzione industriale era arrivata dopo anni e anni di crescita, anche se non fortissima in Italia, ma di crescita dal 99 in poi, quasi ininterrotta, adesso la frenata arriva dopo 3 anni di sofferenze e lenti o parziali tentativi di recupero. Ne parliamo con l'economista Gian Maria Grospietro, che insegna a Luis, editorialista del Sole 24 Ore, ma soprattutto, oltre che essere uno dei principali studiosi delle politiche industriali di questo paese, è stato presidente dell'IRI prima, poi dell'ENI, poi di Atlantia, ossia l'ex Società Autostrade. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, nessuno si attendeva un gennaio, perché febbraio sarà un mese difficile, ma lì diamo già per scontato anche l'effetto neve e gelo nei dati sulla produzione industriale, ma qui parliamo di gennaio, in cui tutto sommato l'aspetto meteorologico ha pesato meno. Meno 5% rispetto a gennaio del 2011, ripeto, dal 2009, dal dicembre 2009, che non si vedeva una frenata così brusca. È sorpreso anche lei? Sì, francamente mi ha sorpreso. Bisogna dire che il tendenziale incorpora in questo meno 5% anche la frenata che si era già prodotta nell'ultimo trimestre del 2011, e quindi è la conferma piena che siamo in recessione, però non mi aspettavo un dato così fortemente negativo. Ecco, e lo dico a chi scrive al 349-238-6666, è che poi la macroeconomia o i dati aggregati come questi spesso si sposano con la realtà di tutti i giorni. Noi riceviamo da settimane mail, sms, messaggi su Facebook che dicono: attenzione, qui le fabbriche, gli ordinativi non stanno arrivando, i fornitori sono sostanzialmente con i magazzini che si stanno riempendo. Cioè riceviamo segnali molto empirici, anche se non esaustivi, dal territorio, e poi andiamo a vedere il dato aggregato e purtroppo le due cose assieme si tengono. Questa scheda racconta dove, cioè in quali settori produttivi si è fatta sentire maggiormente la frenata di gennaio. E 5. Tanti sono i mesi consecutivi di calo della nostra produzione industriale, che lo scorso gennaio ha registrato per di più la flessione più forte dal dicembre 2009. L'ultimo dato positivo risale allo scorso agosto, a testimonianza di una situazione economica che si sta nuovamente deteriorando, senza che per ora si intraveda alcun segnale di inversione di rotta. Particolarmente significativo il brusco calo dei beni durevoli come auto e elettrodomestici, che sfiora il 13% rispetto all'anno prima e raggiunge addirittura il 37% se si considerano solo le automobili. A significare che in questo momento molte famiglie non hanno né la possibilità né la voglia di fare acquisti che comportino una spesa media o grande. Tra gli altri settori è andata particolarmente male l'industria della carta e del legno, con un tonfo del 16% rispetto all'anno prima. Pesanti anche gli arretramenti della produzione chimica, meno 8%, e apparecchiature elettriche. Hanno invece contenuto i danni la farmaceutica, il tessile e calzaturiero e la meccanica, tutti con cali che oscillano tra il 2 e il 3% rispetto al gennaio del 2010. C'è infine, per fortuna, anche chi ha chiuso il mese con il segno più. L'industria alimentare ha messo a segno un incremento della produzione del 2%, così come l'elettronica, in progresso del 2,3%. Da che si capiscono due cose, a mio avviso, professor Grospietro. La prima, la conferma che gli unici settori in questa lotta tra sommersi e salvati che tengono, che emergono, sono i settori legati all'estero, l'agroalimentare, ma oserei dire anche il calzaturiero e il tessile, perché in questi anni si sono spostati sui mercati che crescono, ne parliamo settimanalmente, e dall'altro la conferma che questa crisi, iniziata nel 2009-2008 come crisi finanziaria, si è poi trasformata in una crisi economica e poi una crisi occupazionale, e adesso ci stiamo beccando la quarta fase, la crisi dei consumi. Che significa, come spiegava la nostra scheda, che tutte le spese non percepite come necessarie, tipicamente le alimentari, o necessarie perché hanno un grosso valore aggiunto, l'elettronica da consumo, lo sappiamo tutti, i tablets e gli iPad, ma tutte le spese che si possono procrastinare, che si possono rimandare, vengono rimandate. Se la tua auto non cade a pezzi, non la cambi. Se sostanzialmente il tuo elettrodomestico non si è rotto, non si è bloccato, non lo cambi. Mi sembra a questo punto, professore, che si debba ragionare su una fase di politica industriale messa in sicurezza i conti pubblici, come vediamo in questi giorni. Vorrei la sua risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Grospietro, intanto mi dica se condivide l'analisi, cioè le varie fasi di questa crisi, da finanziaria economica, da economica occupazionale, da occupazionale nei consumi, e se alla luce di questo, visto che tengono solo i beni considerati per vari motivi fondamentali e tutto ciò che si può rimandare come acquisto si rimanda, se non sia necessario anche ragionare su una idea di politica industriale. Direi proprio di sì, anche perché se andiamo a un'analisi più fine, che non è fatta solo rispetto per alla settori, mia, giustamente, ma è fatta per aziende, si vede che in tutti i settori ci sono delle aziende che riescono a esportare e sono quelle che hanno prodotti nuovi, che hanno incorporato delle tecnologie nuove, che sono penetrati in paesi in forte crescita per ragioni demografiche, anche di basso costo del lavoro. Allora, queste aziende sono in grado di esportare e quindi di agganciarsi a quei mercati nei quali la compressione dei consumi non è così forte come sul mercato interno. E una politica industriale deve puntare proprio su questi fattori di crescita e di aggancio ai motori dell'economia mondiale, e cioè tecnologia, innovazione da un lato e dall'altro penetrazione nei mercati che sono i motori dell'economia mondiale. Per questo servono degli strumenti. Allora, nella vita anche privata, tagliare è più facile che crescere. Mi spiego, noi avevamo un problema come Italia che forse stiamo risolvendo grazie a Mario Monti, grazie a Mario Draghi, grazie all'Europa, e cioè di mettere in sicurezza i conti pubblici, no? A settembre, ottobre e novembre lo spread era 540, adesso siamo a 290. Mi sembra che questa fase di emergenza, cioè il pompiere Monti, l'acqua sul fuoco della casa che stava iniziando a bruciare, ci sia stata. Più difficile, lo dico perché non vogliamo rubare il lavoro al ministro Passa, ci mancherebbe, più difficile è la fase del rilancio, nel senso di le politiche per una crescita, perché mettere in sicurezza i conti, vabbè, fai una manovra finanziaria aggiuntiva, aumenti l'IVA, aumenti le pensioni, fai la lotta all'evasione e tutto sommato aumenti il gettito complessivo. Altra cosa è la parte costruttiva, di costruzione. Ora, prima domanda, ha un senso ragionare di politiche industriali come fa per esempio molto spesso la Francia, cioè decidere a questo punto quali settori, su quali settori puntare, quali settori sviluppare, dove andare a collocare le poche risorse disponibili, oppure no? Molto raramente, nel senso che la politica industriale dovrebbe favorire l'innovazione, che vuol dire andare in territori sconosciuti. La possibilità di sbagliare è elevatissima, quindi bisogna lasciarlo fare ai privati, in modo che chi sbaglia si corregge e cambia strada. Quando è lo Stato, in modo dirigistico, a scegliere dove si deve andare, corre il rischio di fare errori madornali, e purtroppo la politica per sua natura, quando commette un errore, tende a non riconoscerlo. Quindi niente dirigismo, ma tranne in alcuni limitatissimi casi, quando si parla per esempio di grandi sistemi nazionali, di reti infrastrutturali, di scelte energetiche, allora lì lo Stato può dare degli obiettivi e poi dire ai privati chi è più bravo li raggiunga più in fretta. Quindi il metodo francese, addirittura in Francia si arriva a individuare i settori distretti produttivi, lì vai a produrre questo, lì quell'altro, la convince poco. Mi sembra che sull'export la Francia non stia facendo dei gran numeri come l'Italia invece. Esatto, le nostre aziende stanno facendo bene, però purtroppo ogni tanto mi capita di vedere che delle aziende che stanno facendo bene, una parte di questo bene vanno a farlo all'estero, perché conviene di più. E non parlo di delocalizzazione di lavorazioni a basso contenuto, parlo di ricerca e sviluppo. Allora, se io le dicessi che la politica industriale in senso francese, cioè dirigista, non ha molto senso, ma avrebbe senso una politica industriale fatta in primo luogo come politica fiscale? Certamente sì. Per esempio, uno dei motivi per cui aziende ad alto contenuto tecnologico localizzano in Canada piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che anche in paesi del nord Europa, le loro attività di ricerca e sviluppo sta nel fatto che lì queste attività danno luogo a un credito d'imposta immediatamente percepibile. E quindi questa attività, che è naturalmente ad alto rischio, viene a costare molto di meno all'impresa perché viene detassata. Non dimentichiamo che il vantaggio della ricerca e sviluppo è duplice: da un lato posti di lavoro pregiati, ben pagati, ad alto contenuto professionale; dall'altro maggiore competitività delle produzioni e anche delle lavorazioni che contengono lavoro operaio. Questo è un... Quindi poi politica fiscale significa ridurre il cuneo fiscale, cioè ridurre quello che è il costo del lavoratore per l'impresa, ma anche ridurre quelli che sono gli oneri per gli investimenti in ricerca e sviluppo, gli oneri fiscali, le tasse che si pagano. Sono due strumenti complementari e separati. Il primo consente di rendere più competitivo il lavoro, e non c'è nessun motivo perché noi dobbiamo tassare il lavoro, il nostro lavoro contenuto nei prodotti che fabbrichiamo, mentre invece non viene tassato il lavoro contenuto nei prodotti che importiamo. Quindi giusto spostare il peso dalle imposte dirette alle imposte indirette, che colpiscono tutti i prodotti, anche quelli importati. Ma dall'altro, cioè, bisogna detassare... Cioè più IVA meno IRPEF? Esatto, più IVA meno IRPEF. E poi detassare dall'IRES, cioè dall'imposta sulle società, le somme investite in attività di ricerca e di sviluppo. Su questo, allora, se ho ben capito, lei dice l'unica politica, io forzo un po' il ragionamento, l'unica politica industriale che avrebbe un senso in questo momento è una politica fiscale. No, ce n'è un'altra. Ecco, mi dica la seconda. E la seconda è quella per favorire la penetrazione nei mercati esteri, perché queste sono le due gambe su cui ci si regge: avere dei buoni prodotti, che oggi vuol dire avere dei prodotti con tecnologie innovative, e l'altro essere capaci di andarli a collocare su quei mercati che stanno crescendo, crescono perché devono recuperare un divario ancora fortissimo rispetto al nostro tenore di vita. Quindi ci vogliono strumenti per penetrare in questi mercati. Ecco, lì il ministro Passera sta cercando di risistemare l'ICE, ma per esempio, insomma, l'ICE l'abbiamo sospesa senza mettere qualcosa al suo posto. Fatta come l'ha fatta prima funzionava poco e delle volte anche male, però insomma rinunciare a uno Stato che promuove le sue imprese, cosa che i tedeschi fanno invece in maniera capito, come una Panzerdivision, i francesi con uno sciovinismo che gli è proprio, forse è un errore, no? È un errore forse anche favorito da molte critiche che erano state rivolte all'ICE. Gli industriali che se ne servono non hanno mai mancato di far presente che si poteva migliorare, eccetera, ma un conto è migliorare, un conto invece è sopprimere lo strumento, che, come lei dice, tutti i paesi avanzati, tutti i paesi fortemente esportatori possiedono. Quindi si tratta di aggiornarlo, eventualmente vedendo quello che fanno gli altri e imitandoli. Ecco, nel concludere, professor Grospietro, però anche con lei, come con altri ospiti, penso ai manager che sono venuti nelle ultime settimane, manager di grandi gruppi, insomma, quando parliamo del futuro industriale di questo paese c'è sempre un grande assente, un convitato di pietra, che si chiama il consumo interno. Cioè mi sembra che noi parliamo di imprese, ci stiamo, vorrei avere conferma da lei, ci stiamo rassegnando all'idea che la nostra struttura produttiva, le nostre industrie, le nostre imprese, se vogliono vivere e crescere devono guardare all'estero. Cioè l'Italia l'abbiamo dimenticata come mercato? No, l'Italia non la dobbiamo dimenticare, anche perché vediamo benissimo che gli operatori esteri non la dimenticano. Quando i pochi investimenti che fanno in Italia li fanno proprio per servire il nostro mercato interno. Quindi prima di tutto per sediare il mercato interno, perché è anche la base sulla quale si possono costruire i prodotti per esportare all'estero. Però non dobbiamo dimenticare che se guardiamo con un occhio un poco obiettivo il panorama mondiale, in Europa abbiamo un reddito pro capite che è talmente più elevato di quello dei paesi emergenti, senza che questo divario sia completamente giustificato da un divario di produttività, che in futuro non potremo che vedere ridurre questo divario. Quindi è razionale pensare che il grosso dell'incremento dei consumi che i nostri produttori devono perseguire, si trova fuori dall'Europa, sarà altrove. Senta, nel concludere veramente, lei teme che con il 2013, con le elezioni, si blocchi tutto? Sì o no? No, io sono ottimista, non sono uno scienziato della politica, io penso che ciò che avverrà con le elezioni, perfino gli scienziati della politica hanno difficoltà a prevederlo e quindi mi lasci essere ottimista. Diciamo perlomeno non con la ragione. Grazie al professor Gianmaria Grospietro, appunto docente alla LUISS di Roma e terrorista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un augurio a voi in ascolto comunque di un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.